Europa 24. Quale Parlamento europeo si prepara nei prossimi 5 anni di legislatura? Buongiorno da Sergio Nava. Oggi a Europa 24 andiamo a indagare le priorità degli eurodeputati italiani che siedono alla plenaria di Strasburgo. Ai nostri microfoni Giovanni Lavia, presidente della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare, nonché membro del nuovo centrodestra e del Partito Popolare Europeo. In agricoltura avremo da applicare la nuova politica agricola comune, avremo tanti temi, forse una revisione intermedia per far sì che la politica sia più aderente, abbia meno margini di libertà per gli Stati membri, perché se no rischiamo di avere politiche agricole troppo diverse tra Stato e Stato, con delle regole di concorrenza non sempre semplici da mantenere per i diversi paesi. Dall'altro lato dobbiamo parlare di ambiente, dobbiamo parlare di sicurezza alimentare, dobbiamo completare un percorso per l'etichettatura dei prodotti sul piano comunitario. E in questo campo ci sarà tanto da fare, perché avremo bisogno di garantire ancora di più i consumatori su quello che portiamo davanti a loro, abbiamo bisogno di tutelare ancora di più l'ambiente, ma in un momento di profonda crisi anche di prestare attenzione a un buon bilancio, a un buon equilibrio tra ambiente e imprese, tra ambiente e industrie, perché non possiamo sacrificare sul tema ambientale la ripresa economica. Per cui ci sono temi sui quali dibatteremo, ci confronteremo e speriamo di poter portare a casa, e siamo sicuri di poter portare a casa, alcuni risultati interessanti. I cittadini si aspettano delle risposte a questa Europa e l'hanno fatto chiaramente capire col voto di maggio. Evidentemente non si è riusciti a spiegare bene cosa fa l'Europa e quanto riesce a incidere. È la sfida che vi prendete, altrimenti alle prossime elezioni si rischia un'ulteriore ondata euroscettica. Non c'è dubbio. Io devo dire che noi chiediamo all'Europa alcune cose sulla politica dell'immigrazione, sulla flessibilità per la crescita, sugli interventi, e non possiamo però non dimenticare che l'Europa ci mette a disposizione risorse che molto spesso non utilizziamo o utilizziamo male, e allora dobbiamo bilanciare la nostra valutazione e stare attenti che girare le spalle all'Europa, così come ha fatto qualcuno, è estremamente pericoloso. Noi dobbiamo essere capaci di dimostrare che l'Europa può far bene e può essere quello strumento essenziale per consentirci di uscire dalla crisi e di guardare un futuro di prosperità e non solo quella pace che sino adesso ci ha dato. Questi primi 6 mesi di Parlamento europeo coincidono anche con la presidenza italiana dell'Unione europea. Quale ruolo intendete giocare come gruppo popolare nei confronti della presidenza italiana? Noi siamo parte del governo dell'Italia, è un governo di grande coalizione. Condividiamo quello che è il programma della Presidenza, lo abbiamo condiviso a livello parlamentare nazionale con i nostri gruppi politici. Ora è il momento di passare alle parole ai fatti. Sarà un semestre molto importante, perché sarà il semestre nel quale si imposterà la nuova Commissione, si imposterà il programma dei prossimi 5 anni. Quindi è un semestre nel quale, più che fare atti legislativi, si imposterà il lavoro che si farà negli anni che verranno. Per cui è un semestre importante e riteniamo che con la presidenza italiana si possa condividere o si possa portare avanti nei 5 anni che verranno. C'è molto lavoro di impostazione da fare, il rischio non è che forse alla fine si portino poi a casa pochi risultati concreti sui temi quali appunto economia, crescita, immigrazione, che sono quelli che stanno più a cuore al governo? Ci sono alcuni temi sui quali bisogna mettere mano immediatamente. Noi come Popolari, per esempio, sull'immigrazione abbiamo chiesto a Juncker di mettere nel proprio gabinetto un commissario con una delega specifica all'immigrazione, al momento in cui, e questo servirà per far sì che ci possa essere una capacità di risposta immediata del governo dell'Europa alle ondate migratorie. Non possiamo pensare di avere questo come tema secondario in un portafoglio molto più complesso. Per cui l'Europa deve fare su questi temi, ci aspettiamo delle risposte rapide, non possiamo aspettare. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.